Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 3 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti chi ci ascolta dal carcere, dalle case circondariali e anche dalla città, buongiorno. E Pietro Floridia dei Cantieri Meticci, buongiorno, ospite con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, oggi con me siete a Napoli con la cronaca bianca, leggo Iari Russo su comunicaresociale.com, Napoli dona un libro nelle carceri, iniziativa del collettivo Gli Ultimi Saranno. Perché portare la cultura in ogni carcere affinché possa divenire occasione di rinascita per chi ha avuto una storia complicata è la mission di questo collettivo Gli Ultimi Saranno, nato nel 2018, per l'intuizione di Raffaele Bruno, attore e regista napoletano. Questo collettivo è formato da musicisti, attori, artisti di ogni genere e ha avuto sempre l'ambizione di portare l'arte nei luoghi dove spesso non riesce ad arrivare, come centri di igiene mentale fino ai centri di recupero per tossicodipendenti fino alle carceri. E si sono impegnati adesso appunto nelle carceri con questo progetto che si chiama per l'appunto Dona un libro, e il fine ultimo è quello riassunto molto bene dallo slogan, cioè parole luminose dietro le sbarre, quello di creare cioè un filo tra chi è dentro e chi è fuori le sbarre. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno chiesto alla popolazione di comprare un libro, che di solito è quello che si regala magari a Natale o per il compleanno a parenti o amici, ma no, è dedicarlo invece con una dedica scritta alle persone detenute in carcere. E a questa iniziativa hanno aderito anche le librerie, in particolare di Napoli, che hanno esposto un cartonato che invita i clienti ad acquistare un libro in sospeso, perché deve arrivare una persona che non si sa chi è, quindi è una cosa anche molto bella, a donarlo a sostegno di questa iniziativa. Poi i libri saranno conservati dal collettivo e poi distribuiti nelle carceri durante le loro attività. Ma ora do la parola a te, Ignazio, perché si parla di donne irachene. Sì, andiamo in Iraq con un servizio molto interessante, importante e che fa pensare, deve farci pensare tutti quanti, sul tema della violenza di genere. È un servizio firmato da Simota Voltin, del 12 febbraio 2021, quindi abbiamo un servizio molto recente, e inizia parlando di Doha Sabah, che è stata felicemente sposata per 18 anni con un uomo il quale una mattina la picchia e quindi inizia a farle violenza, e quindi scopre un uomo diverso accanto a lei. E le statistiche dicono che, come in tanti altri paesi, l'abbiamo già detto anche per quanto riguarda il Marocco, anche l'Algeria e perché no anche in Italia, questa epidemia di Covid ha portato a un aumento sensibile in Iraq della violenza sulle donne. Questo è un problema che riguarda tutti i paesi, quindi non solo i paesi arabi, ma in particolar modo noi lo troviamo in questo momento in Iraq, dove si dice che è aumentato in modo molto sensibile durante il periodo della pandemia. E non solo, ma c'è un problema culturale alla base di questa violenza di genere, che è la convinzione che le stesse donne hanno del diritto degli uomini di picchiarle. E quindi sono state fatte delle indagini per cui risulta che il 43% delle donne afferma che è una cosa normale che l'uomo alzi le mani in casa. E questa cosa porta a famiglie spezzate, e le famiglie spezzate dicono un altro dato che riporta l'articolo di Al Jazeera, che la maggior parte delle persone che poi cadono nel crimine vengono da famiglie spezzate. E quindi famiglie disunite. Allora su questo c'è tutto un processo che riguarda anche a livello di quartieri, cioè i cosiddetti wusata, che fanno un compito di mediazione per riunire le famiglie, Però è una strada lunga e le stesse organizzazioni femminili che si battono contro la violenza di genere si trovano esposte a loro volta, certe volte, a delle forme di persecuzione. Quindi mi pare importante, chiudo qua, che sia un canale come Al Jazeera, che è una testata islamica, anche piuttosto tradizionalista, però che lanci questo messaggio. Nell'Islam non si può fare come non si può fare nel cristianesimo, qualsiasi altra cultura. Uomo e donna hanno pari diritti e doveri. Benissimo, grazie. E adesso è il momento di lanciare la nostra Aisha. Dunque, Aisha Erodouane, che canta appunto i testi tradizionali, persino delle canzoni, dei testi di Rabia al-Adawiyya, la grande poeta sufica islamica, e canta questa volta un testo che ha per titolo Matta Hayatek, cioè godi la vita. Eccoci sulle note di Godi la vita di Aisha Erodouane. Siamo sempre con te, Ignazio, con il nostro Galateo Arabo Internazionale, e stiamo parlando già da qualche giorno di come fare guerra alla gelosia. E abbiamo parlato del parlarne l'ultima volta, ma adesso forse bisognerebbe pensare alle conseguenze, no, di quello, esatto, che provoca. Esatto, hai detto benissimo, infatti dice così il nostro Galateo Arabo, lo leggiamo in arabo, da rura tutto. تفكير بالآثار السلبية التي تتركها غيرتها على الآخرين. Cioè pensare, riflettere sulle azare, sulle tracce. L'azare addirittura in arabo diventano poi l'archeologia, quindi possono essere tracce profonde, tracce negative, Silvia, che la tua gelosia lascia nelle altre persone, che non sono solo la persona diretta, sono geloso della moglie, del marito, dell'amico, ma anche sull'ambiente intorno, sui figli. Cioè quando un sentimento negativo si prende possesso di Yusaiteru Aleina, ci controlla, poi finisce per travolgere anche gli altri. Quindi questo effetto noi lo chiamiamo l'effetto domino. In arabo diremo silsila al-azar. La catena delle conseguenze ci deve far pensare sulle nostre azioni. Grazie Ignazio, ritorniamo con te sempre con il Galateo e ora do la parola a Pietro per parlare della Compagnia dei Rifugiati, che è un'esperienza che tu hai lanciato nel 2016, è un progetto pilota in Italia, no? Sì, la Compagnia dei Rifugiati è nata per... come dire, sensibilizzare la città, la società in relazione a una condizione di cui si sapeva molto poco e spesso stigmatizzata, spesso come dire, che reca pregiudizi. L'esperienza si è evoluta nei cantieri meticci e, come dire, in comparazione posso dire che abbiamo viaggiato verso la mescolanza, abbiamo viaggiato verso un'idea di sé all'insegna della trasformazione, della metamorfosi, perché da un lato è nostro dovere, non so come dire, presentificare chi magari è assente o chi è invisibile in una società. Dall'altro vogliamo mettere l'accento sul fatto che ci si trasformi nella vita, che certe condizioni non assorbono completamente l'identità di una persona e quindi in certi casi rischiano di inchiodare una persona che invece è tante cose diverse, che può divenire tante altre cose ancora, e invece certe condizioni alle volte ci inchiodano, ci bloccano, ci fermano, sia da parte degli altri che da parte di noi stessi. Allora uno è solo rifugiato, invece l'immensa ricchezza di cui tutti noi siamo portatori deve essere stimolata. E allora ci è piaciuto evolvere verso, come dire, un'idea di meticciato, che della relazione e del fatto che la relazione sia proprio la via anche per sviluppare, per scoprire lati di sé altrimenti atrofizzati. Ecco, è stato importante, insomma, pensarsi in mutamento, in trasformazione, e non lasciare che una delle tante cose che siamo, come dire, monopolizzi tutto il resto. Grazie, molto bello quello che hai detto, ma ti chiederei anche se hai un episodio da raccontarci su questi incontri di meticciato, di diversità. Ma i racconti più belli sono legati al fatto che tutti insieme abbiamo viaggiato, sì, mezzo mondo, e quindi, non lo so, quando siamo arrivati a Varsavia, dove insomma la prevalenza bianca è immensa, come dire, si è paralizzato l'aeroporto vedendo scendere attori dalla Somalia, dal Camerun, dalla Costa d'Avorio, dalla Cina, e per cui dopo un po', insomma, quando finalmente ci hanno lasciato passare, a decine hanno voluto sapere in quali teatri fossimo diretti e sono venuti a vederci la sera, perché era qualcosa di stravagante, e anche per i nostri è stato molto, molto, molto strano, molto esaltante. È stata anche una bella promo, quindi, una cosa del genere. Sì, una bella prova. Grazie, e ora, siccome abbiamo parlato dell'inserimento lavorativo a inizio puntata, io lancerei un brano di questo rapper italiano, adesso molto conosciuto, lui è Caparezza, il brano è Sono un eroe, e noi ci rivediamo domani. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper, invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker, ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue, un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Smai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, che sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato, invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco, il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorta i domiciliari, finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario. contrario, tutte le sere sono un eroe. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con Roberta Licalzi, buongiorno, benvenuta di nuovo con noi su Liberi. E buongiorno. Oggi, siccome la scorsa volta abbiamo parlato di motti valoriali e tu ci hai un po' illustrato che cosa significhi saper perdere e quindi anche saper fare spirito di squadra, imparare, oggi parliamo invece di una carta dove sono contenuti i valori dello sport, ma il riferimento allo sport femminile. E questo lo dico con grande soddisfazione, enorme soddisfazione, anch'io da cittadina bolognese, perché intanto è stata approvata a Bologna, e dopo torneremo su questo, ma io volevo chiederti come nasce questa iniziativa. Allora, l'iniziativa, intanto grazie per l'opportunità di parlare di questa carta, che è un documento importante. L'iniziativa nasce su proposta e sollecitazione della presidente Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete, che si rivolge a noi Comune di Bologna dicendo fondamentalmente: visto che già lavorate tanto in ambito e valoriale e anche sportivo, soprattutto femminile a 360 gradi, e perché non facciamo insieme la prima carta dei valori in Italia, che non c'è, valori legati allo sport femminile. Noi, per noi intendo, io ho sollecitato subito l'assessora alle parità e pari opportunità Susanna Zaccaria e l'assessore allo sport Matteo Lepore del Comune. Abbiamo lavorato insieme proprio in un gioco di squadra con Assist e soprattutto con tutte le associazioni sportive del territorio per costruire questa carta dei valori. E cosa ci dice? Ci dice che c'è ancora tanto bisogno di lavorare nella direzione di tutelare e andare a identificare e combattere laddove ci siano soprusi, violenze che purtroppo ci sono ai danni delle donne anche negli ambiti sportivi, perché lo sport è un grande contenitore, ecco, valoriale. Infatti, ma appunto non ci sono solo le cose belle. Volevo chiederti proprio questo: sappiamo della necessità in tutti gli ambiti di fare attenzione, cioè molto molto bene, autoeducarci alla parità di genere, ma perché nello sport è così importante anche? Innanzitutto sull'ambito delle tutele, perché tutte le sportive in Italia che praticano qualsiasi disciplina non sono professioniste, sono tutte dilettanti, in ogni disciplina, anche quelle dove appunto invece i maschi praticano lo stesso sport e sono professionisti. Perché dico tutele? Per tutele intendo tutele previdenziali, assicurative, maternità, quindi prima di tutto tutele per le sportive, ma non solo, tutelare e non permettere l'abbandono fin da bambine. Sappiamo che c'è una fascia di età, che è quella della preadolescenza e adolescenza, dove le ragazze abbandonano di più lo sport, e questo crea un problema nell'ambito e femminile e di tutta la comunità. La carta va in quella direzione: garantire parità di accesso, parità di tutele. Il buon esempio parte dalla pubblica amministrazione. Gestire un impianto, una società che gestisce un impianto, deve essere attenta a tutte quelle che sono le possibilità per fare sport anche delle bambine e delle ragazzine. Grazie. Lanciamo un brano musicale legato ai temi di oggi. Cosa ti viene in mente? Beh, se penso alle donne, a una grande donna del mondo della musica, mi viene in mente Fiorella Mannoia e Quello che le donne non dicono. Ascoltiamola. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. vanno via, delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità. E lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate. E rieccoci sulle note di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Ritorniamo sulla nostra carta dei valori per lo sport femminile e ti chiedo perché tutto questo parte da Bologna, cioè perché ci possiamo vantare veramente di Bologna come città pilota su questa cosa? Perché Bologna è una città che fa già moltissimo in questi ambiti, nell'ambito dei diritti in generale e in particolare dei diritti delle donne e delle tutele. E quindi non poteva che nascere da Bologna, la dico così, una carta di questo tipo, per la grande attenzione, perché c'è un terreno fertile e l'abbiamo visto nel confronto con le realtà sportive del territorio. Abbiamo condiviso una prima bozza di questo testo, l'abbiamo appunto discussa insieme a tutte le realtà sportive e ci sono arrivate molte proposte di integrazioni, modifiche o semplicemente di condivisione di contenuti, e questo è stato importante perché molto spesso si dice partiamo dal basso, in questo caso l'abbiamo fatto. E l'avete fatto tutti insieme, questa è una cosa molto molto bella, c'è uno spirito di squadra anche nel fare scelte politiche, questa è una cosa importantissima. E a questo proposito... Brava, e aggiungo che in questa squadra c'è anche l'ufficio sport del Comune di Bologna e l'ufficio Parità e pari opportunità. L'ufficio parità e pari opportunità ha fatto un grande lavoro proprio anche sui contenuti e sulla condivisione con le realtà che non sono solo quelle sportive, ma sono anche quelle che riguardano appunto il mondo delle donne in generale. E a proposito appunto del mondo delle donne in generale, sappiamo che in questo momento ci stanno ascoltando anche le detenute della casa circondariale, non solo della Dozza, ma della regione Emilia-Romagna. E se tu hai un messaggio oppure un aneddoto, qualcosa da dire a queste detenute anche sportive che in questo momento per ovvie ragioni non possono fare attività sportiva? Beh, il mio messaggio è che ovviamente l'importanza è per tutte le donne e tra tutte le donne ci sono ovviamente anche le detenute. Quindi fare un lavoro di valorizzare, di focalizzare l'attenzione sull'importanza, sui diritti e sulle tutele delle donne, significa farlo anche quando questo riguarda le detenute. Ovviamente io auguro a tutte le detenute di riprendere al più presto anche l'attività sportiva, che è importante perché mai come in una casa circondariale dà anche quella forza per riuscire a resistere. Grazie Roberta, ora un brano musicale lo lancio io, famosissimo, lo conoscete tutti e tutte, We Are The Champions dei Queen. Grazie, alla prossima, ciao! Grazie, ciao! I paid my dues time after time, I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few, I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato la nostra Roberta Licalzi per la rubrica sportiva e io vi ridò sempre appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 17 su Tele Tricolore. Oggi che è mercoledì abbiamo la rubrica dell'equipe sanitaria a cura di Agnese Drusiani e vi ricordo di scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40136 Bologna oppure a liberidentro.eduradio@gmail.com. Grazie e a domani.